torna nel vento una cantilena. Colori d'estate ritornano in me. Ritrovo immagini di noi e ti vedo ancora. Com'eri bella accanto a me. Per inventare nella sogno un'estate, sul nostro amore ritagli di sole. Mani di zingara, cinte di anelli, avevano dolci carezze per me. Innamorati, innamorati vicino al mare, e tanto sole intorno a noi. Ancora immagini di noi, ma tu non ci sei. C'è tanto sole e tu non ci sei.